E allora, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa e questa è la Conta, trasmissione contro il carcere e contro ogni altro strumento di privazione della libertà. E proprio di questi altri, diciamo, altre strutture che privano della libertà, in questo caso anche più pesantemente che il carcere, parliamo dei manicomi giudiziari, gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari. Ne parliamo perché il 31 marzo, quindi a fine di questo mese, scade il termine perché che ha fissato la legge, è già il terzo rinvio per la chiusura degli OPG. Che cosa ci sono diversi problemi che apre, intanto il rispetto di questa chiusura non è detto che avverrà, perché appunto molte strutture stanno ancora, le strutture sostitutive, queste REMS, poi racconteremo cosa sono le REMS, che dovrebbero sostituire gli OPG, e le REMS dovrebbero essere dislocate in maniera regionale, nel fondo sul piano regionale, ed essere gestite dalle ASL regionali. Gli OPG sono 6 attualmente ancora in tutta Italia, che recludono oltre 1000 persone, sono circa 1000 persone. Dunque, diciamo, intanto il problema è che non sappiamo se non è detto che il 31 sarà rispettato, perché appunto molti lavori stanno indietro per costruire queste altre strutture, e soprattutto non è chiaro ancora che tipo di reclusione o comunque regolamentazione dovranno avere queste REMS. Il secondo punto è che lo apre questo aspetto, no? Cioè gli OPG vanno chiusi non solo perché erano strutture cadenti, vecchie, fatiscenti, tremende dal punto di vista dei i corpi reclusi, ma erano soprattutto rispettavano un vecchissimo ordinamento, la reclusione per la malattia mentale, che è una cosa vecchia di oltre un secolo, e quindi poi diremo anche due cenni di storia come nascono gli OPG, quindi da superare. Il quarto problema è che cosa c'è alla base di tutto ciò, degli OPG, delle REMS e della, diciamo, della psichiatrizzazione delle persone dichiarate per infermità mentale. C'è appunto la psichiatria, la psichiatrizzazione. Ora, questo c'è un discorso vecchio, ci stanno centinaia di libri, se li volete leggere, ce ne sono tanti. Per molti studiosi la psichiatria non è una scienza, perché pretende di poter manipolare il pensiero, non un organismo. Le altre branche della medicina, chi si occupa del fegato, chi del cuore, chi della milza, che sono strutture reali in cui si fanno trapianti, ma non si aggiusta questo, si aggiusta quello, sia chimicamente sia con la intrusione che chirurgica, e quello comunque e sono anche misurabili, cioè la scienza moderna ha dato la possibilità, altrimenti diventava appunto stregoneria, la possibilità di misurare per esempio un cuore, sì, c'è l'elettrocardiogramma, c'è una serie, diciamo, di elementi di rilevamento del malfunzionamento di quell'organismo, di quell'organo, e quell'organo, se funziona male, diciamo, la medicina ha messo in piedi una serie di meccanismi per correggere quel malfunzionamento tecnico, è misurabile, però è visibile, è materiale, è concreto. La psichiatria invece opera sul pensiero. Certo, il pensiero poi produce comportamenti, però c'è la presunzione di poter operare sul pensiero umano, cambiando il pensiero umano. È nata dentro questa strumentazione, è nata il poter manomettere il pensiero umano, è una cosa vecchia come il cuco. Tutti i poteri da sempre, dall'antichità, dai primi poteri che abbiamo visto formarsi negli imperi, nei grandi stati dell'antichità fino al giorno d'oggi, i sistemi di potere vogliono manomettere il pensiero dei sudditi o dei cittadini, chiamateli come volete, perché il controllare il comportamento significa appunto garantire la pace sociale, utile al sistema di potere di riprodurre se stesso. Questo è il principio. Dunque si sono appunto criminalizzati, cioè ogni comportamento che non rispettava un ambito stabilito appunto dalle strutture di potere, atto a riprodurre il sistema vigente. Ogni comportamento che metteva in discussione oppure faceva balenare l'idea di un cambiamento, di una trasformazione, viene criminalizzato, veniva e viene criminalizzato. Dunque, partiamo intanto dall'appello che è stato volto dalla rete antipsichiatrica per una manifestazione proprio in concomitanza quasi del 31, cioè della scadenza per cui dovrebbero essere chiusi gli OPG. La manifestazione si terrà il 28 marzo, perché appunto il 31 è un giorno infrasettimanale, a Reggio Emilia, sede di uno degli OPG più importanti e anche più vecchi, anche più tremendo. L'appuntamento è appunto a Reggio Emilia il 28 marzo. Il concentramento avverrà in piazza San Prospero, vicino a Piazza dei Leoni, facilissimo, è piccolo Reggio Emilia, è facile trovarlo, alle 14.30 e alla fine ci si recherà sotto l'OPG e si darà il saluto agli internati della rete antipsichiatrica. Mandiamo un piccolo stacco musicale e poi leggiamo questo appello. Beat on the brat, beat on the brat with a baseball bat. Oh yeah, oh ho. Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with a baseball bat. Oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh yeah, oh ho. With a brand like that, though it's on your bum. What can you lose? What can you do? What can you do? With a brand like that, though it's on your bum. What can you lose? Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh yeah, oh ho. With a brand like that, though it's on your mind. What can you lose? What can you do? What can you do? With a brand like that, though it's on your mind. What can you lose? Allora, 15.13, ancora in diretta, dicevamo l'appello di cui parlavamo per la chiusura di tutti i manicomi, liberiamoci dalla psichiatria. Corteo sabato 28 marzo a Reggio Emilia. No OPG, no REMS, no psichiatria. Esistono muri, a volte invisibili, che dividono la normalità dalla follia. Follia tra virgolette. Sono costruiti dal potere e rafforzati dal deserto che si trova al loro esterno. La presunta chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, OPG, adesso li chiameremo OPG, prorogata ormai da 4 anni, è 4 volte che avviene questa proroga, lascerà spazio all'istituzione delle REMS, che sono residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Chiameremo REMS, però capite tutti, residenze, esecuzione, misure di sicurezza, ed è un problema. Cioè, attenti alle parole, no? Perché la parola residenze per l'esecuzione vuol dire dall'idea della reclusione, cioè luoghi dove si risiedono le persone che stanno in misura di sicurezza perché possa avvenire l'esecuzione della loro, diciamo, di un tempo atto a guarirli, dicono loro. Continua l'appello, cambia il nome, gli internati sono deportati, gli appalti assegnati e lo slancio riformista soddisfatto, ma le nuove strutture conservano la medesima attitudine repressiva e il concetto stesso di manicomialità, perpetuandone lo stigma. Lungi da rappresentare un indebolimento della detenzione senza fine e della psichiatria, ne sono la continuazione aggiornata, calibrata su modelli detentivi improntati alla esternalizzazione e alla privatizzazione, come avvenuto per i CIE, i centri di identificazione ed espulsione. Da questa prospettiva si intravede un sistema detentivo sempre più articolato, in cui i concetti arbitrari di malattia mentale e pericolosità sociale, attenti a questi due concetti, no? Malattia mentale porta con sé il concetto di pericolosità sociale, quindi passa da una questione medica a una questione penale. Attenzione, che è questo passaggio è diciamo delicato, e però è un cambiamento completamente di ottica di intervento sul socio, sulle persone che vivono nel sociale. Allora, si intravede quindi un sistema detentivo sempre più articolato, in cui i concetti arbitrari perché non hanno una rilevazione scientifica, malattia mentale, che appunto è una persona che fa lo psichiatra e dice tu sei malato mentalmente, e pericolosità sociale, che è un termine di carattere invece penale. Pericolosità sociale sono quelle persone che alcuni altri uomini, definiti magistrati con l'ausilio anche del lo psichiatra si lega a un funzionario del sistema penale, quindi a un magistrato, insieme definiscono che quella persona colpita da malattia mentale è anche pericoloso socialmente. Un attributo del tutto generico, non basato a fatti che ha compiuto, ma a quelli che potrebbe compiere. Quindi è come se questi due uomini, lo psichiatra e il magistrato, si elevassero a livello di dei, cioè, perché gli antichi dicevano che il futuro sta solo sulle ginocchia degli dei, sta seduto sulle ginocchia degli dei. E poiché questi prevedono il futuro degli esseri umani, cioè potrebbero dire tu o io, potrei da domani in poi essere pericoloso per la società, perché potrei mettere in atto dei comportamenti nocivi alla società, e quindi mi rinchiudono. Pensate che allucinazione, no? È la peggiore di tutte le religioni, perché questo è un Dio che nelle vesti di due uomini decidono il mio futuro e quindi anche la mia libertà o non libertà, e anche poi l'intervento sul soggetto, perché non è più pesante del carcere, mentre anche nel carcere c'è la previsione, no? L'abbiamo detto, la prognostica, eccetera, cioè, si prevede il concetto di pericolosità sociale anche nel codice penale, ne vedremo tra un attimo la storia, ne è anche quindi nelle sentenze, le sentenze sempre più della magistratura, sia verso la cosiddetta delinquenza comune, sia verso quella del conflitto sociale, quindi politica, viene ritenuta sempre più centrale, non tanto quello che hai fatto, ma quello che potresti fare, e quello che potresti fare se diventa pericoloso per la società, per l'ordine esistente, non per gli uomini e le donne di questa società, ma per l'ordine di questa società, ossia dell'ordine capitalistico, per capire, per non essere stupidi, insomma, per chiamare le cose con il loro nome. Dunque, questo è un passaggio importante capire, no? Tant'è vero che appunto qui li definisce concetti arbitrari di malattia mentale e pericolosità sociale, perché sono due concetti che non hanno uno strumento di misura, quindi sono lasciati al completo arbitrio di due soggetti, no? Lo psichiatra e il giudice. Andiamo avanti. Acquistano quindi questi due concetti arbitrari maggior rilievo, avallati da perizie mediche incontrastabili. È importante e urgente riconoscere il ruolo centrale che ricopre la psichiatria nella nostra società, come uno dei mezzi più violenti, invisibili, versatili e repressivi in mano al potere. In realtà non è da oggi, cioè, oggi ne vediamo l'invadenza psichiatrica, perché entra molto nelle galere, appunto, siccome anche lì le misure alternative, le libertà parziali, le semilibertà, eccetera, vengono date su una prognostica, cioè su una previsione che tu farai il bravo cittadino, il bravo suddito, oppure che tu continuerai a fare il cattivo, e quindi in base a questa previsione, che appunto attribuisce pericolosità sociale, gradi di pericolosità sociale, viene data o meno la libertà o la semilibertà, insomma comunque l'uscita dalla galera. E questo fatto è legato, viene sempre più, si lega a una lettura del cervello, si fa per dire, attraverso appunto l'opera dello psichiatra. C'è sempre stato, perché tutti abbiamo letto opere della narrativa o anche saggistica che ci dicono che, per esempio, grandi persone importanti, anche scienziati, che ne so, per esempio qui a Roma abbiamo una bella piazza, no? Campo dei Fiori, quel grande genio bruciato in Piazza dei Fiori, è chiaro che l'accusa principale, sì, non era solo di blasfemia, ma prevalentemente di non essere normale. Quindi da sempre c'è stato il bollare l'oppositore, l'avversario, il rivoluzionario come persona non a posto con la testa. Continuiamo a leggere. A Reggio Emilia sono concentrati i principali organi repressivi di detenzione, quali tribunali di sorveglianza, carcere, OPG, le strutture d'alta sorveglianza psichiatrica, e sono già in costruzione le future REMS. Le mura possono essere di cemento oppure chimiche, possono essere utilizzate per punire oppure per prevenire. Non esistono compromessi, i corpi e le menti non si rinchiudono. Questa è l'affermazione in positivo. Distruggiamo i manicomi, liberiamoci della psichiatria, perché i nostri pensieri siano sempre più pericolosi per chi li vorrebbe incatenati. E quindi corteo nazionale a Reggio Emilia il 28 marzo, che è sabato appunto. Concentramento, lo ripetiamo, a Piazza San Prospero, vicino a Piazza dei Leoni, alle 14:30, e poi dopo questo corteo al termine si andrà sotto l'OPG di Reggio Emilia per dare un saluto ai reclusi. Questo è della rete antipsichiatrica, questo appello, e appunto chiama tutti e tutte per questa manifestazione. Ora, io credo che sia molto importante andare, è un tema, già il carcere è abbastanza sconosciuto, sempre più sconosciuto, sempre più ignorato dalle persone, eppure ci riguarda, e come? Ci riguarda molto, perché poi quando ci si va dentro per tanti motivi, le persone passano circa 60, 70, 80 mila persone l'anno dentro il carcere, quindi, eppure essendo un fatto di rilevanza importante, molte famiglie, diciamo, della periferia urbana, quindi proletari, sottoproletari, hanno un congiunto, un parente, no? Dentro il carcere, quindi, eppure nonostante questa invadenza totale del carcere c'è una certa rimozione, paura di fare i conti con questo mostro che si chiama carcere, ancor di più per il manicomio è stato, sono stati chiusi, non è terminata con la chiusura dei manicomi del 78, non è cessata l'invadenza psichiatrica, anche perché i manicomi statali sono stati chiusi, no? Quella che si chiama la legge Basaglia, che è stata poi trasformata, impoverita e distrutta dai passaggi in Parlamento, perché il ceto politico non voleva chiuderli affatto, quindi meno della metà di quello che prevedeva la legge originaria Basaglia. E poi comunque ha lasciato nelle cliniche private l'operazione psichiatrica, l'attività psichiatrica. Nelle cliniche psichiatriche si continua a fare elettroshock, c'è il letto di contenzione, cioè l'invadenza psichiatrica è continuata, anche se però è stata una battaglia importante, non va chiusa, non va dimenticata, anche perché è stata portata avanti non da convegni, dibattiti e altro. Quella battaglia per la chiusura dei manicomi è stata fatta in piazza, nelle piazze. Pensate un po', allora i giovani che facessero, sia gli studenti, le studentesse, i lavoratori precari, i lavoratori a tempo pieno, i disoccupati, insomma, si sono interessati del problema, e del problema carcere e del problema manicomio, perché poi la similitudine è molto forte. Sono scesi in piazza, ricordo proprio Reggio Emilia vide delle grosse manifestazioni negli anni 70, molto forti a metà degli anni 70, che sostenevano appunto la chiusura di del manicomio, l'ospedale psichiatrico non giudiziario, dove ci andava gente che era completamente avulsa dall'aver fatto un reato, però venivano inseriti le storie, sono state tante, ci sono bellissimi libri di storie fotografiche, bellissimi libri di storie testimoniali, e insomma, però la differenza sostanziale è che appunto quella chiusura in parte poi piegata, cioè diminuita, svilita dall'azione becera dei parlamentari quasi quelli di destra spaventosamente, quelli di centro pure, quelli di sinistra vabbè lasciarono andare così, comunque è stata svuotata dei principi fondamentali. Tuttavia quel risultato importante che il mondo riconosce, l'Italia all'avanguardia di queste, di questa battaglia che c'è dappertutto e non è che da qualche parte è rose e fiori, ebbene è stata realizzata con la piazza. I dibattiti, i convegni hanno accompagnato le lotte che sotto gli OPG, ricordo anche le battaglie sotto Ersa, cioè i peggiori manicomi vedevano manifestazioni spesso forti, anche violente, perché la chiusura del manicomio richiedeva un tot di violenza, perché lì c'era violenza all'ennesimo grado. Bene, che non vuol dire che adesso però bisogna riprendere, riaccompagnare soprattutto i giovani e le giovani, perché su loro graverà questa invadenza psichiatrica, se la lasciamo passare, e quindi bisogna portarli nelle piazze per dire no alla invadenza psichiatrica e al controllo psichiatrico. Allora, 15:27, un po' di storia, pillole, breve pillole. Il manicomio criminale viene istituito nel 1876 in Italia, quindi vedete molto molto vecchio, quasi 150 anni, e poi regolamentato più dettagliatamente dal codice Rocco del 1930, il codice fascista. È rimasto tutto inalterato, il manicomio giudiziario o manicomio criminale. Prima si chiamava manicomio criminale, al suo sorgere ne è stato cambiato soltanto il nome. Appunto, nell'876 viene formato col nome MC, manicomio criminale. Nell'891 il Regio Decreto, appunto del 1 febbraio 891, regola gli stabilimenti carcerari e i manicomi criminali, e viene denominato, cambia il nome, manicomio giudiziario MG. Perché? Perché hanno dovuto cambiare il termine criminale a quello giudiziario, perché dentro vi venivano messe anche persone non condannate, quindi giudiziario, in attesa di giudizio, che non verrà mai, no? Da lì i famosi ergastoli bianchi, gente che entra dentro perché non processabile in quanto ritenuta inferma di mente, quindi sospeso il processo giudiziario, quello regolare, quello del codice penale, viene sospeso perché la persona è inferma di mente, quindi non punibile, e però viene portata nel manicomio giudiziario MG, appunto perché non condannato, per essere rimesso in sesto e poi poter subire un regolare processo. La presenza nel manicomio giudiziario per guarire in attesa del processo è infinita, e da qui infatti vennero chiamati gli ergastoli bianchi. Bianchi perché non comminati da nessuna sentenza, ma realmente espiati. Nel 1975, arriviamo ai giorni quasi nostri, con la legge 354, quella che riforma, comunque cambia non molto, però perlomeno cambia gli aspetti più beceri del carcere fascista. Considerate, va sempre considerato, che nonostante la meravigliosa liberazione, la lotta partigiana che tra un po' il 25 aprile tutti ricorderanno, allora in Italia c'è stata una meravigliosa, c'è stata intanto una guerra spaventosa e sono morte 60 milioni di persone, e vabbè, per far cessare i due fascismi e nazismi presenti in Germania e in Italia. Bene, in Italia c'è stata una grossa resistenza con molti morti, eroi, importanti battaglie anche popolari, ci ha partecipato il popolo, eccetera, che ancora ne andiamo fieri, però poi il cambiamento dal regime fascista al regime democratico repubblicano non è avvenuto, sia chiaro a dirlo, non è avvenuto nella sostanza. Alcune cose sono state cambiate, c'è stata una Costituzione che dice tante cose, metà delle quali ovviamente non applicate, e però per esempio il carcere fascista, quello che la gran parte dei resistenti, degli eroi, dei partigiani, degli antifascisti hanno conosciuto di persona, presidente della Repubblica Pertini, ma tanti altri, ecco, non è stato cambiato dopo la liberazione, non è stato cambiato di una virgola. Bisogna aspettare il 1975, quindi 30 anni, dal 45 al 75 sono passati 30 anni dopo la fine del regime fascista, perché venissero cambiate, ritoccate alcuni elementi più tremendi del carcere fascista. Pensate come siamo messi, no? Quindi non c'è niente da festeggiare. Il 25 aprile ci sarebbe da rimboccarsi le maniche e riprendere un cammino per troppo tempo lasciato interrotto. Dunque, nel 75, quindi, la legge 354, che è quella che toglie un po' perlomeno tutta la parvenza di fascismo, per esempio che i giornali venivano tagliati, cioè gli articoli che non dovevi leggere te li tagliavano, quindi i giornali che entravano in carcere erano pochissimi, quelli di regime, e con gli articoli di cronaca nera ritagliati, cioè non li potevi leggere perché non stai tagliati, avete le assurdità, no? Potevi scrivere una lettera soltanto ai familiari, rigidamente ai familiari, su un foglio di carta che ti veniva dato dalla guardia, un foglio di carta e una matita, tu scrivevi, poi restituivi il foglio di carta e la matita con l'indirizzo, la guardia lo leggeva, imbustava e lo spediva, se riteneva valida quella cosa allucinante. Tutto questo valido fino al 1975, e non è stato anche lì un convegno, un dibattito degli esperti che hanno detto delle cose, perché l'avevano pure detto, ma l'avevano detto dal 49, poi c'è stata, vabbè. È stata necessaria una lunga stagione di rivolta, rivolte nelle carceri iniziate nel 1968, soprattutto è sviluppato in tutto il territorio nel 1969 e continuate fino al 75 per ottenere questo straccio di legge, che anche questo nei passaggi parlamentari è stato completamente svuotato dei suoi criteri innovativi rispetto al carcere fascista. Non è che fossero un granché, però chiaramente erano una bella lavata delle incrostazioni fasciste. Però insomma, nel 75 cambia qualcosa. Intanto viene chiamato PG, e intanto il nome diventa ospedale psichiatrico giudiziario. Perché da manicomio giudiziario hanno messo ospedale psichiatrico giudiziario? Anche qui c'è un elemento, c'è un pensiero mica tanto bello. Il pensiero è che il manicomio giudiziario dice: vabbè, ci mettiamo le persone anche non condannate, quello rimangono, perché la parola giudiziario rimane. Manicomio è un termine molto generico, ormai criticato dal 99% di quelli che studiavano questo problema, però la casta degli psichiatri è rimasta bella ancora dal potere. Comunque veniva criticata, quindi mettiamo ospedale, cioè qui ci sono delle persone malate di mente che vanno curate, quindi ospedale. Malate di che cosa? La loro malattia è stabilita dalla psichiatria, quindi ospedale, psichiatrico e giudiziario, perché ci vanno le persone non ancora condannate, quindi cambia il tipo. Però ogni parola di queste tre parole, OPG, ospedale, psichiatria, come vedete ha un'importanza tremenda, cioè la persona va curata, quindi deve andare in ospedale, la devono cambiare. La cosiddetta scienza psichiatrica sovrintende questa cura, e giudiziario perché ci vanno le persone che hanno commesso qualcosa ma non sono state ancora condannate. Attenzione, chi va nell'OPG ancora oggi, e questo è un elemento che torna importante, viene in, ci stanno tanti casi, l'abbiamo raccontato tante volte perché paradigmatica, cioè un gruppo di ragazzi, quattro ragazzi, fanno una rapina, cose che avvengono tutti i giorni, da sempre, sotto questo cielo, e probabilmente succede ancora per molto tempo, in misura vastissima, in tutti, vanno a rapina in una gioielleria, quattro persone, quattro ragazzi, passa lì a volante, quando stanno per uscire li fermano e li arrestano, non c'è problema, cose che anche questa normalizza, avviene tranquillamente, spesso, no? Li arrestano, tre di questi vengono messi, più o meno accettano l'arresto e vengono portati via, messi le macchine, le volanti hanno due in una macchina, il terzo lo mettono nella seconda macchina, il quarto cerca di divincolarsi e di fuggire, cosa ultranaturale. Chi è che non farebbe questa cosa, vedendo che nel frattempo gli agenti si stavano appunto scompaginando, perché hanno messo due lì e li dovevano tenere fermi, il terzo messo lì, si ha visto un po' così, ha cominciato a cercare di scappare. Nello scappare che fai? Dai uno spintone alla guardia, cerchi di allontanare quell'altro e scappare, la fuga, tentare di scappare è la cosa più normale di questo mondo, lo fanno gli uomini, lo fanno gli animali, lo fanno tutti, no? Quando vengono catturati da qualcuno. Probabilmente ha dato qualche spinto di troppo, non lo sapremo mai. Questo qui non viene poi viene preso, perché le guardie escono fuori là, lo bloccano e cominciano a dire, telefonano e dicono: c'è uno dei quattro che ha dato in escandescenza, bisogna calmarlo. Bene, cambia tutta completamente pagina, quei tre vengono portati via in carcere, poi seguiranno un processo, prendono un anno e mezzo perché non c'era stato uso di armi eccetera, e quindi dopo un anno escono da galera. Questo qui invece deve essere calmato, viene preso, arriva un'altra volante, impacchettato, portato presso uno psichiatra che individua stato di esagitazione mentale, portato quindi in un reparto di psichiatria, bollato col marchio di malato mentalmente, sottoposto a psicofarmaci, portato in un OPG, non verrà fatto il processo, rimane dentro l'OPG per 30 anni. I suoi amici, ormai che sono fatti un anno in carcere, poi sono usciti, hanno fatto la loro vita, eccetera, dopo tanti anni se lo sono andati a prendere, dopo 30 anni, questo si era fatto 30 anni. Cioè, questo è un po' dire che è assurdo è dire poco, qui è l'aberrazione umana, non solo di quelli che praticano questa violenza, anche di noi che la lasciamo praticare. Andiamo avanti. Allora, questo è il percorso degli OPG dal 1876 ad oggi. Oggi OPG, appunto, no? Però le riforme del 75, quello della legge abbiamo detto, e poi quella dell'86 chiamata legge Gozzini, che però ristruttura un po' tutto il sistema della custodia, della reclusione, e anche le riforme psichiatriche, quella del 65 e quella del 78 che chiuse gli ospedali psichiatrici, quelli, diciamo, i manicomi normali, i cosiddetti manicomi normali, non c'è niente di normale nel manicomio, comunque perlomeno di chi l'ha messo in piedi, lo concepisce e lo continua a produrre. Quindi nel 78 vengono chiusi i manicomi, queste due leggi, quelle carcerarie e quelle psichiatriche, non interagiscono con il concetto fondamentale, ossia il fatto che una persona dichiarata da uno psichiatra, da due psichiatri, insomma, malato di mente, infermo di mente, deve essere reclusa, gli deve essere tolta ogni libertà, nemmeno di quello di mangiare, nemmeno quello di fumare, nemmeno quello di ogni movimento che deve fare deve essere sottoposto al controllo di alcuni, e quindi l'OPG è una struttura molto più, in questo caso, restrittiva del carcere. In carcere la sigaretta te la può fumare quando vuoi, puoi pure cucinare quando vuoi se c'è il fornetto, ma anche se c'è condizioni dure che ti fai iniziare, cioè qualche, ti puoi muovere come ti pare, ti metti a dormire quando vuoi e ti alzi quando vuoi, insomma ti muovi nell'OPG no, perché prima di andare, quando decidono che devi dormire ti imbottiscono di psicofarmaci per dormire, e così via. Insomma, quindi l'OPG è rimasto più o meno la stessa cosa, quello del 1876, 150 anni fa circa, quindi pensate com'è nuovo. Il problema è che nel frattempo, quindi dal 75 e soprattutto con i cambiamenti dell'86, quindi quella che era chiamata legge Gozzini, con tutto il contorno, cioè il carcere comincia, dovevano cambiarlo dal sistema fascista e farlo diventare un carcere moderno. Il carcere cosiddetto moderno si basa sull'individualizzazione del trattamento, ossia ogni persona questa secondo i principi liberali, però erano giunti un po' tardi, perché i principi sono della metà dell'Ottocento, anzi della prima metà dell'Ottocento, questi principi che dicono ciascuno è responsabile di quello che fa, lui personalmente, quindi individualmente risponde di quello che ha fatto, non quello che ha fatto la sua famiglia, il suo ambiente, il suo villaggio, eccetera. Questo dicevano i liberali. Ovviamente queste cose hanno trovato applicazione molto tardi secondo i vari paesi. In Italia tardissimo, negli anni 80-90, l'altro ieri, l'individuazione del trattamento, che da una parte avrebbe dovuto togliere, scusate nel condizionale, è necessario, avrebbe dovuto togliere quell'elemento che, no, della pericolosità sociale, che quella è sempre esistita nei codici penali di questo paese e un po' di tutti i paesi, e che veniva attribuita all'ambiente. Cioè, quando una persona veniva arrestata che aveva fatto una rapina, un furto, quello che volete, veniva condannata non in base a quello che aveva fatto, ma in base al fatto ad appartenere a un ambiente, ad un quartiere, ad un villaggio, ad una famiglia, cioè ad un contorno di persone ritenute pericolose. Quindi la sua pericolosità era mutuata dalle persone con le quali era vissuta, dall'ambiente, dal contesto in cui era vissuta, contesto personale di persone, famiglia, villaggio, amici, clan, eccetera. E questa individuazione del trattamento e della pena ha fatto sì che che avrebbe dovuto appunto rendere più oggettiva, no? Tu paghi quello che fai, questo diceva appunto il pensiero liberale dell'Ottocento, e questo avrebbe dovuto essere applicato, no? Però messa in quel contesto era rimasta la pericolosità sociale, non era stata, questa avrebbe potuto funzionare se contemporaneamente all'individuazione del trattamento si fosse proprio cancellata la norma della pericolosità sociale, perché rimanendo in vigore la pericolosità sociale, è chiaro che il trattamento individuale viene fatto in modo, viene fatto tenuto conto anche della pericolosità sociale, cioè il concetto ambientale del contesto rientra pericoloso ancora di più di prima, nel senso che amplia oppure diminuisce la tua condanna, che è individuale, dovrebbe essere individuale. Al punto per valutare questa gradualità di pericolosità, si rientra anche nei reati, rapina, furto, cioè nella vita normale di tutti i giorni, la psichiatria. Questo porta con sé l'individuazione del trattamento. Non perché fosse negativa di per sé, chi l'aveva pensata, appunto i liberali della prima metà dell'Ottocento, sempre in ambito borghese, doveva essere un passo avanti rispetto alle punizioni collettive che caratterizzavano il sistema penale fino allora in tutta Europa, sicuramente, probabilmente anche in altre parti del mondo, ma quindi deve essere spazzata via la pericolosità sociale, il fatto che tu tu sei Pinco Pallino e hai fatto un furto e io ti condanno in base a quello che hai fatto, per me sei la persona X, no, tu vieni dal quartiere, vieni da Scampia, è chiaro che ti becchi il doppio della condanna, è chiaro che non solo, ma nessun giudice ti darà una misura alternativa permettendo di rientrare prima della scadenza della pena in quell'ambiente ritenuto criminogeno, che crea crimine, che produce crimine. Cioè, è chiaro che è un meccanismo, non poteva funzionare. Cioè, queste riforme a metà strada sono più dannose. Per quello si dice che il carcere non è riformabile, non perché in astratto non lo sarebbe, non lo potrebbe essere, ma perché se tu lasci inalterati i sistemi punitivi, messo l'individualizzazione, alcune riforme messe dentro non fanno altro che peggiorare, in questo caso l'abbiamo visto, no? Persistendo alla pericolosità sociale, l'individualizzazione del trattamento, cioè il trattamento, la condanna individuale, il trattamento, cioè il reinserimento sociale, deve essere anch'esso individuale, crolla su se stesso e peggiora, diventa una cosa peggiora, perché nella previsione di quello che io potrei fare, danni o favori alla società, viene considerato anche l'ambiente di provenienza, e chi lo considera, di nuovo lo psichiatra, cioè qualcuno che opera sul tuo pensare, sul tuo comportamento, sul tuo così immaginare. Tant'è vero che il cosiddetto trattamento, il trattamento è diciamo il percorso rieducativo che il detenuto o la detenuta fa, e in questo percorso rieducativo viene osservato dal direttore, l'educatore, lo psicologo, il capo delle guardie, spesso anche il cappellano. Cioè una struttura, il cappellano non ci sta a funzionare dentro questa struttura, però insomma poi ci rientra così di sghimbescio. E insomma, queste persone dovrebbero sovrintendere, sovrintendono al tuo trattamento, e verificano i passi in avanti e fai il trattamento, cioè diventi una brava persona, ti reinserisci socialmente, ti rieduchi e allora uscirai prima. Questo, come fanno loro però queste persone a prevedere un tuo comportamento? Cioè noi lo mettiamo in misura alternativa, come facciamo a prevedere che questo non farà più reati, si metterà a fare la brava persona, bravo ragazzo eccetera, brava ragazza, oppure invece faranno ancora peggio di quello che li ha portati dentro? Ovviamente non si può sapere, il futuro non lo sa nessuno. Allora, non avendo gli dèi, perché per fortuna questa società dice di essere laica, hanno riscoperto degli dèi che sono gli psichiatri. E allora, se voi nel trattamento che fanno per ciascun detenuto e per ciascun detenuto vengono elencati, riportati tutti i comportamenti che fanno, che ne so, uno un giorno dorme fino alle 11 di mattina, quello viene segnato, uno fa uno sciopero della fame, uno fa un piccolo atto d'autolesionismo, che ne so, si strappa la tuta, si incazza e quindi fa qualcosa di strano, si fa anche un piccolo taglietto, quello viene riportato, uno un giorno piglia il piatto della minestra e lo butta o sbatte addosso al muro, perché è pure normale che uno in galera si incazzi, no? No, se non ti incazzi lì dove ti incazzi? Ecco, tutto questo viene segnato, quindi i comportamenti vengono segnati come se stessi sul lettino del psicanalista. E questo poi, tutto questo poi viene elaborato dall'equipe, cioè questi che presiedono al tuo reinserimento, quindi che osservano il tuo trattamento e decidono se puoi uscire o non puoi uscire prima. Tutto questo meccanismo, come vedete, è stato un mettere mondezza su mondezza, perché bisognerebbe fare, cioè, come dicevano tutte le persone intelligenti che hanno analizzato queste società, o tu spazi via tutto e cerchi di ricostruire da capo delle strutture che non abbiano i difetti precedenti, altrimenti si sommano a quelli nuovi e quindi la riforma diventa inutile, anzi dannosa, non inutile, dannosa, come è avvenuto in tutte le carceri, non perché di per sé quella riforma fosse dannosa, perché inserita in un marchingegno che non era stato pulito, in tutta quella ragnatela di problemi intricatissimi, aveva fatto peggiorare quel sistema. Questo è il perché tutti gli studiosi, Foucault e tanti altri, tutti quelli che hanno trattato gli altri, dicono il carcere non è riformabile per questo meccanismo, perché se invece uno azzerasse tutto e ricostruisse da capo, un modo di riformare il sistema della sanzione potrebbe essere messo in piedi, però bisognerebbe azzerare tutto. Questo vale in tanti casi, nel carcere e nel manicomio è chiarissimo, però credo che si possa estendere a tutti, è proprio un principio. Comunque, questo è il problema. Volete sapere, curiosità per esempio, come si può finire in un OPG? Allora, i motivi li abbiamo già raccontati raccontando alcune storie. Vi è il sospetto, soltanto il sospetto della malattia mentale, cioè di un disordine mentale, una persona, uno psichiatra, basta che dichiara che Pinco Vallino, tizio ha un sospetto di disordine mentale, a quel punto viene bloccato. Questi sono rei folli, cioè persone che hanno fatto, comunque sono imputate, non sono state ancora condannate, come ho detto il caso dei quattro rapinatori, vengono portati davanti al giudice per essere verificati se le prove sono sufficienti e quindi condannati oppure assolti, no? Questo è il decorso normale. Se però qualcuno dice questa persona che sta davanti al giudice per essere diciamo processata ha il sospetto di un vizio mentale, soltanto il sospetto, il giudice blocca il processo a questa persona, ordina una perizia psichiatrica e se questa conclude con un giudizio di incapacità di intendere e di volere, l'imputato non può essere processato, viene prosciolto senza giudizio e poiché è automatico però, poiché è ritenuto pericoloso socialmente in quanto incapace di intendere e di volere, si avvia all'ospedale psichiatrico giudiziario. È questo l'articolo 88 del codice penale. Rocco, fascista lui, fascista il codice, però attualmente in vigore, con buona pace di tutti gli antifascisti, che sono tanti, però evidentemente non si sono resi conto che il pilastro centrale di questa società italiana, Repubblica Democratica Italiana, è un codice penale. Di qualunque società il pilastro centrale è il codice penale, non la Costituzione, è il codice penale, che dice quello che puoi fare e quello che non puoi fare, come viene sanzionato quello che non puoi fare e così via. Bene, e il pilastro centrale di questa società è ancora, c'è ancora la firma di Mussolini. Mi dispiace per gli antifascisti, ma francamente sono più di forma che di sostanza, anzi io immagino che in Italia veri antifascisti quasi non ce ne siano, o sono un'esigua minoranza, diciamo, molta minoranza, tantissima minoranza, perché in Italia le cose fasciste che ancora funzionano, per esempio il testo unico leggi di pubblica sicurezza, l'opera dei poliziotti sui cosiddetti cittadini, anche quello è di origine sempre del 30-31, insomma sono tante, come vedete, quindi tanti, che siano tanti gli antifascisti in Italia mi pare un po' una butade, una cazzata, insomma. Va bene, quindi si può finire in questo modo qui. Il problema poi, quanto tempo ci si rimane? Avviata, abbiamo visto il problema, si avvia la persona all'OPG, ritenuto incapace di intendere di volere dalla perizia psichiatrica ordinata dal giudice, quella persona viene avviata in OPG. Quanto ci sta non lo definisce, la perizia psichiatrica non dice questo dovrà andare in OPG per un anno, sei mesi, tre anni, due anni, no, non dice, dice soltanto questa persona è incapace di intendere di volere, punto, e viene inviato in OPG. In OPG sta in mano del sistema psichiatrico, che ogni tanto, ogni tot, fa una relazione dicendo questa persona è ancora incapace di intendere di volere e quindi deve rimanere ancora qui. Per uscire dall'OPG ci vuole che tutta la schiera degli psichiatri dica esplicitamente e firmi il fatto che la persona non dimostra più incapacità di intendere di volere, ha superato il vizio mentale ed è, può quindi essere reinserita nella società. Cosa difficilissima, perché chi firma, a parte che in un OPG sfido chiunque, la persona più sana di questo mondo, più equilibrata, a rimanere tale. È chiaro che lì chiunque viene messo, se sta bene sbrocca, quindi è difficile. Ma perché in quelle condizioni, l'abbiamo visto nei film, c'è pure questo documentario su cui è partita l'onda di chiudere gli OPG. Come vengono trattati, ma soprattutto qual è quello psichiatra che dice secondo me tu non farai più nessun comportamento inadatto, non accettato, non lo dice, perché se poi questo lo fa, lui si gioca, non dico non niente di penalmente, però insomma si rovina la carriera, la reputazione, quindi continua a dire no. Quindi si fa il famoso ergastolo bianco quando uno entra in un OPG. Ora, questo è l'OPG, uno dice vabbè, ora li chiudiamo. Attenzione, questo criterio con quale si va nell'OPG, col quale non si esce, eccetera, eccetera, col fatto della pericolosità sociale, col fatto che torna l'ambiente, il contesto in cui uno è cresciuto e vissuto e tornerebbe, opera con forza anche, cioè è centrale nell'operare anche quando gli OPG verranno chiusi e al loro posto sorgeranno le REMS, perché non è cambiata il meccanismo con il quale una persona viene sottratta alla libertà. Le REMS sono questo, un tentativo di riformare, e da qui abbiamo visto che se non togli anche qui la pericolosità sociale fai lo stesso errore che l'individualizzazione del trattamento ha portato in un sistema penale caratterizzato dalla pericolosità sociale. Si fa, capito? Quindi rischia di essere peggio. L'unica cosa che dice le REMS, dopo pressioni eccetera, sono che la permanenza nelle REMS non può essere superiore al massimale previsto dal reato per il quale tu sei andato a finire là dentro, per il quale tu non sei stato condannato, sei stato soltanto incriminato, poi appunto visto il vizio mentale è stato buttato. Comunque se prevede il massimo, per esempio 5 anni, tu più di 5 anni non ci puoi stare, se prevede 10 anni, però considerate che per ogni reato, come può osservare chiunque sfoglia il codice penale, la forbice tra minimo e massimo è molto ampia, tante volte in alcuni reati si va, che ne so, da 4-5 anni fino a 15 anni, quindi contano i 15 anni, conta il massimale. Comunque sia, c'è almeno messo questa cosa, ma non è finita lì, perché anche se uno non potrà stare nelle REMS più del massimale previsto per il reato col quale è stato inquisito, col quale andato a finire nelle REMS, tuttavia anche uscendo si porta presso il marchio di vizio mentale. Questo è il problema, perché non è che esce con una carta fatta a non pigliare che dice gli è passato tutto, è guarito, può essere, no, esce semplicemente perché è finito il tempo di permanenza previsto dalla legge, quindi esce col marchio ancora in fronte. Questo non hanno cambiato quando hanno fatto questa legge dannata, perché capite la miseria morale di questo paese. Si sono tutti indignati, facile indignazione, incazzati, strappati i capelli, no? Come fanno sempre, stanno sempre a strapparsi i capelli, apposta forse i calvi, tanto va di moda, perché quando la Corte Europea ha condannato l'Italia per lo stato delle carceri sono strappati i capelli, quando tutto il mondo ha visto gli OPG, questo documentario fatto sugli OPG, sono strappati i capelli, sempre a strapparsi i capelli. Poi però non hanno né il coraggio né la caratura mentale né quella culturale per andare a fondo e togliere gli elementi centrali. Se una persona viene dichiarata sospetta di malattia mentale, rischia di portarsela appresso per tutta la vita. Torna il marchio, quello che ci dicono c'era nel Medioevo, che veniva stampato in fronte a fuoco del reato fatto, no? Uno aveva fatto un reato qualsiasi, gli veniva stampigliato in fronte a fuoco, quindi indelebile, e il reato che aveva fatto, e gli rimaneva per tutta la vita, ovviamente. Bene, il problema perché? Perché il problema del manicomio, dell'OPG, della malattia mentale, della psichiatrizzazione, non è un fatto che riguarda le mura. Difatti non è stato importante abbattere i manicomi, ma non abbattere le mura, così come diciamo sempre non è importante abbattere le mura di un carcere, quello è facilissimo, basta qualche etto d'esplosivo, cascano le mura del carcere, non è quello il problema, è che nel manicomio, nel carcere, bisogna togliere il criterio con il quale le persone vengono rinchiuse, vengono marchiate a fuoco, vengono separate dalla società, sia nel carcere che nel manicomio. Il manicomio non è una struttura, non è un edificio, ma un criterio mentale, una sottocultura, un sistema, secondo me fascista, molto fascista, di valutare le persone, secondo tanti, secondo me, io ripeto quello che ho imparato leggendo più grandi analisti di questo sistema vergognoso del trattare, del violentare le persone. Il sistema psichiatrico è un violentare le persone, ecco, sottoporre le persone a controllo psichiatrico secondo me equivale molto al violentare le persone. Quindi chiudere i manicomi criminali, cioè gli OPG, senza cambiare la legge che li sostiene, il concetto, la sottocultura che li sostiene, vuol dire creare nuove strutture forse più accoglienti, con le tendine rosa, all'interno delle quali finirebbero sempre rinchiuse persone giudicate incapaci di intendere e di volere. Per abolire realmente gli OPG e quindi il meccanismo manicomiale, quindi il meccanismo di controllo psichiatrico, bisogna non riproporre i vecchi criteri di modelli di custodia, bisogna mettere mano a una riforma che smantelli le strutture fondanti del codice penale, perché lì il meccanismo, il marcio, no? Quindi bisogna assolutamente abolire la pericolosità sociale e tutto il meccanismo di valutazione di una persona sul tuo futuro, cioè che cosa farà nel futuro lo decido io, dicono questi due poteri, psichiatrico e giudiziario, che è veramente è tornata una religione di quelle più violente, più feroci. Vabbè, insomma, quindi non, e soprattutto non si può accettare questo binomio che la cura equivale a custodia, cioè io ti curo per cui ti recludo in un posto e ti tengo sotto controllo. La cura è una cosa, la custodia no. La cura deve essere libera, autodecisa, autodeterminata, voluta definitivamente, e la custodia è una cosa imposta. Bene, torneremo a parlarne di questa, porteremo anche delle belle lettere, leggeremo delle belle lettere che provengono in periodi diversi dagli OPG, perché è un tema importante, c'entra molto col carcere, perché abbiamo visto che la pericolosità sociale, per esempio, oltre che riguardare questo aspetto, oggi riguarda sempre più il nostro agire, intendo il conflitto sociale, e quindi insomma è roba che ci riguarda da vicino. Noi l'orario è finita, la trasmissione è finita, ci sentiamo mercoledì prossimo sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Ricordiamo che questa